cammina o no? No, qualche notte, però tu, Paolo, il tuo mi sta chiedendo come sei, come... Tu mi dici ogni tanto anche di te il culo, però, eh? No, ha detto,